Oh, io, c'è un correbui tutto a dolori, correbui. E io, tanto il signor Murato gli fa le carote con le scavatore, da bui.